Ancora da Napoli, Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi consentito questo intervento. Mi permetta una valutazione di tipo morale, poi sottoposta al suo giudizio. Mi hanno colpito due cose. La prima, la dichiarazione di Cassano, che dopo aver passato quello che ha passato per problemi di indisciplina, ha dichiarato che è passato al Milan, e se avesse saputo che passava al Milan, il presidente Garrone l'avrebbe offeso prima. Ora viene anche premiato con la convocazione immediatamente in nazionale, io avrei aspettato. E la seconda è che Moratti, nonostante quello che ha vinto in tutti questi anni, quello che ha speso in tutti questi anni, continua a sentirsi costretto, in aree di fair play ormai avviata e che non si ferma più, a comprare un giocatore spendendo altri milioni di euro, nonostante ci sia la possibilità di far giocare qualcuno che gioca meno o qualche giovane. Volendo fare un parallelo, se me lo consente, detto in napoletano, mi sembra proprio che alla vaga Pociuccio si perdono pezzo e sapone. Cioè qui veramente non si ha più nessun freno di nessun tipo. Dato che l'ha detta veloce e un po' stretta, la vogliamo provare a tradurre? A lavare la testa al ciuccio si perdono la pezza e il sapone. E forse anche l'acqua. E forse anche l'acqua. Grazie Massimo. Un momento di buon umore. A un momento di buon umore con quell'accento io personalmente non rinuncio mai.